Che cosa sono le autenticazioni e le legalizzazioni? Con l'autenticazione, un impiegato del comune dichiara che la tua firma è stata messa su un documento davanti a lui. L'autenticazione della tua firma può essere necessaria in qualche caso, ad esempio, per alcune dichiarazioni che riguardano fatti e condizioni personali. Queste dichiarazioni possono essere richieste dalle banche o dalle assicurazioni, ad esempio, per alcune domande, chiamate istanze, che devi presentare a soggetti privati, per delegare un'altra persona a ricevere dei benefici economici, ad esempio per ritirare la tua pensione se tu non puoi farlo. Le legalizzazioni. La legalizzazione di un documento ti serve per rendere valido in Italia un documento proveniente dal tuo paese d'origine. Se sono scritti in una lingua diversa dall'italiano, i documenti che devi legalizzare devono essere accompagnati dalla loro traduzione in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata come conforme, cioè corrispondente, al testo scritto in lingua straniera. Chi fa la certificazione della traduzione? Un'autorità diplomatica o consolare italiana fa la certificazione della traduzione. Anche un traduttore ufficiale accreditato, cioè riconosciuto dal consolato italiano del paese d'origine, può fare la certificazione della traduzione. La legalizzazione di una fototessera ti permette di garantire l'identità della persona che c'è nella fototessera. Puoi fare legalizzare la fototessera per ottenere alcuni documenti, ad esempio il passaporto, la licenza di caccia, la licenza di pesca, il porto d'armi. Non puoi fare legalizzare la fototessera se ti serve per la scuola o per lo sport. L'ufficio che rilascia i documenti personali che ti servono può legalizzare le fotografie necessarie se fai domanda direttamente tu. Per chiedere la legalizzazione della fototessera devi andare di persona all'ufficio anagrafe oppure allo sportello dell'ufficio che rilascia il documento d'identità che ti serve. Devi portare con te la fototessera e un documento di riconoscimento valido. I minorenni devono presentarsi con la fototessera ed essere accompagnati da un adulto. L'adulto deve avere con sé un documento di identità valido.